Potenza 27265, Marco Aurelio in chiamata per il Contest Rear. Cicco, cicco, cicco, Radio Italia Radio, 226, in chiamata dal Nord Sardegna per il Contest Rear. Cicco, cicco, cicco, Italia, Nord Italia. You listen me, Contest Radio. Frequency 27265. Twenty-seven, twenty-six, five. CQ, CQ, CQ. Radio Italia. Radio. Il 27265, Marco Aurelio in chiamata per il Contest Rear, Radio Italia Radio 2025. Qualcuno mi copia? Nord Sardegna, Sassari. CQ, CQDX, CQDX, 165, Romeo, India, Romeo, 226, Verona, Sardinia, Island. You listen me for Thoughts Radio, thank you. I call for Contest Rear, Radio, Italia Radio, 2025. Seven, two, six, five, frequency. Chico, chico, chico, Radio India Radio. 226, 226, North Sardegna, North Sardinia Island. You listen me, tu mi senti per prova radio? Chico, chico, chico, Radio India Radio 226 in chiamata Nord Sardegna per il Contest Rear 2025. Gruppo Radio Italia Radio, mi copi, qui Nord Sardegna, Sassari.